È un computer portatile, si chiama MacBook Air, e il nome Aria prende l'idea dal fatto che è un portatile ultraleggero e ultrasottile, soprattutto pesa 1,3 kg e soprattutto è alto da 4 mm a 19 mm, quindi è sostanzialmente un computer molto sottile, che ha la particolarità di fare riferimento soprattutto ai collegamenti senza filo, per questo si dice Aria, ovvero sia un computer che non ha un'unità CD, CD-ROM, non ha molte porte per collegamento, ha solo una presa USB sostanzialmente, e si collega a tutti gli apparecchi esterni utilizzando le connessioni wireless, quindi Wi-Fi e Bluetooth. È un computer che ha la caratteristica, dal punto di vista di Apple è una novità se vogliamo, di cercare di fare da sostituto di strumento per la mobilità totale. È stato anche qui negli Stati Uniti in parte criticato perché ovviamente è un computer che non può fare i mestieri che fa invece un computer più completo, fisso o portatile di più grandi dimensioni, ma ha la finalità di permettere di circolare con pochissimo peso in borsa, tant'è che durante la presentazione Steve Jobs, l'amministratore delegato di Apple, con un colpo di teatro l'ha tirato fuori da una busta per documenti, quindi estremamente sottile. È, come capita a volte per gli annunci di Apple, un prodotto solo americano per il momento oppure no? No, verrà distribuito più o meno in contemporanea in tutto il mondo, nel senso che agli inizi di febbraio, rispetto al martedì scorso, quando è stato dato l'annuncio, Steve Jobs ha detto che entro 2 settimane sarebbe iniziata la commercializzazione in parallelo in tutto il mondo, rispetto agli annunci, quindi più o meno dovrebbe uscire, poi dipende dai ritardi nei canali di distribuzione, più o meno entro 2-3 settimane worldwide, come dicono qui gli americani, cioè in tutto il mondo.